Mi piacerebbe sì che tu passassi di qui tra poco più di un attimo. Portassi con te non solo i tuoi perché, ne ho già dei miei da vendere. Ma tu sei fatta così, tu prima dici sì, ma pensi poi di perdere. Quella tua verità che sola sola sta seduta sempre in bilico. Sorprendimi quel po', tradisci i tuoi però, non continuare a credere che la filosofia sia contro la poesia, ma parti poi dall'anima. Sì, che tu passassi di qui tra poco più di un attimo.